Blu Radio Veneto. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. La rubrica So Info, che osserva e approfondisce i temi della salute con uno sguardo plurale, quello delle donne, dei bambini e delle bambine, dopo aver conosciuto ieri quali siano l'organizzazione e i servizi del pronto soccorso a misura di bambino, oggi con piacere ritrova il primario facente funzioni della pediatria dell'ospedale di Treviso, il dottor Paolo Grotto, per affrontare uno specifico aspetto di grande importanza, quello dell'osservazione breve. Come dicevamo ieri, l'osservazione breve intensiva è uno strumento introdotto dalla Regione Veneto con un decreto della Giunta regionale nel 2005. È uno strumento molto utile nella gestione amministrativa del bambino che arriva in urgenza, perché nella osservazione breve intensiva noi possiamo trattenere in un ambiente idoneo, che vuol dire un posto letto, area di degenza, trattenere il bambino che arriva per motivi d'urgenza in pediatria attraverso il pronto soccorso generale, quindi successivamente il pronto soccorso pediatrico, e l'osservazione breve permette di tenere in osservazione, come si dice, il bambino per un periodo che va dalle 4 ore alle 36 ore, periodo che in cui si possono, uno, valutare ad esempio patologie che non sono chiaramente indicative, per esempio un dolore addominale, non si sa se questo può essere dovuto a una causa banale, un'infezione banale, oppure magari nasconde una patologia chirurgica, per esempio un'appendicite, e al medico a volte è necessario del tempo e degli accertamenti ripetuti per poter discriminare le due patologie. L'osservazione breve è uno strumento utile perché, trattenendo il bambino per lo stretto tempo necessario, questo può essere alla fine o ricoverato, se ha una patologia che emerge e viene diagnosticata, oppure dimesso in sicurezza a domicilio, senza tuttavia essere ricoverato in area degenza, per la quale il ricovero è più prolungato e i costi della degenza sono certamente superiori. Un altro capitolo che beneficia dell'osservazione breve intensiva sono quelle patologie acute che, grazie a una terapia molto breve e sostenuta, possono permettere al bambino di riequilibrarsi, di ripristinare lo stato di benessere ed essere inviato a domicilio anche qui in sicurezza. Questo può essere nel caso di una disidratazione per una infezione intestinale in cui il bambino abbia perso, per il vomito, per la diarrea, molti liquidi. Allora una idratazione, diciamo, sostenuta permette di ripristinare il volume di liquidi dell'organismo, del corpo, e alla fine, quando il bambino recupera lo stato di benessere, può essere mandato a casa anche qui per il tempo strettamente necessario perché venga ripristinato lo stato di salute. Allora, questo strumento per noi è molto utile ed è stato infatti molto utilizzato. Grosso modo circa il 15% dei bambini che arrivano al pronto soccorso pediatrico beneficiano di questa modalità di trattamento. Naturalmente tutti gli accertamenti, tutte le cure, eccetera, sono gratuite, quindi il bambino e la famiglia non ha nessuna compartecipazione alla spesa per le prestazioni durante il periodo di osservazione breve intensiva. Su Info, Salute e Società. Punto Radio a cura di Sor Optimist International Club di Treviso in collaborazione con l'azienda ULS numero 9. Per riascoltare questo programma vai su bluradioveneto.it.